Letture di Radio 24. Nel paese dell'abusivismo edilizio può succedere che 20 anni di processi e carte bollate non siano sufficienti per abbattere un albergo costruito illegalmente, come racconta Gian Antonio Stella sul Corriere della Sera. 116 milioni di euro è l'astronomico risarcimento chiesto dai proprietari dell'hotel Baia delle Ginestre al comune di Teulada e alla regione Sardegna, colpevoli, a loro dire, di un misfatto. Quale? Fecero abbattere una caterva di opere abusive, riconosciute tali da varie sentenze, comprese 2 della Cassazione. La storia, definita dagli ambientalisti del gruppo di intervento giuridico come un incredibile esempio di faccia tosta, è illuminante per capire come mai l'Italia sia il paese europeo marcato dall'abusivismo più devastante. Tutto inizia nei primi anni 90, quando i fratelli Guido, Emilio, Fernando e Renato Antonioli tirano su a Portumalu, sulla costa di Teulada, un albergone che la stessa pubblicità attuale su internet declama con parole esaustive. Il resort Hotel Baia delle Ginestre sorge direttamente sul mare in posizione panoramica. Hanno una licenza per un tot di metri cubi, già che ci sono, diranno i verdetti della magistratura, si fanno prendere un po' la mano, aggiungendo illegalmente, denunciano gli ambientalisti, un parcheggio coperto, un fabbricato alloggio del personale, un campo da tennis, un ampliamento del ristorante, un vascone, una cabina Enel, locali servizio, la reception del complesso alberghiero, un comparto alberghiero da 100 camere, una piscina con locale filtri, una piattaforma pizzeria, 3 baracche di legno, una pista di accesso alla spiaggia, 3 pontili galleggianti, una barriera frangiflutti, per complessivi metri cubi 15.600. Prima se ne occupa il pretore. Demolizione e ripristino ambientale. Poi la Corte d'Appello di Cagliari. Demolizione e ripristino ambientale. Poi la Cassazione. Demolizione e ripristino ambientale. A quel punto, ricorda il gruppo di intervento giuridico, le strutture abusive vennero dissequestrate per consentire la demolizione da parte dei condannati. Risultato? Come se niente fosse. Il complesso viene riaperto e la società di gestione lucrò per anni miliardi di vecchie lire su un patrimonio ormai divenuto pubblico. 5 anni di battaglie legali, politiche, ambientaliste e finalmente nel giugno del 2001, dopo una seconda sentenza della Cassazione che spazzava via gli ultimi ricorsi contro le demolizioni, ecco in azione le ruspe e l'abbattimento delle opere abusive. I padroni dell'albergone, però, sapevano bene che in Italia, paese del cavillo, non è definitiva neppure una sentenza definitiva della Cassazione. Ed ecco che l'anno dopo un altro verdetto della stessa Cassazione aggiungeva un'altra puntata tormentone, rinviando nuovamente gli atti alla Corte d'Appello di Cagliari. E si apriva una nuova battaglia legale su chi doveva pagare il ripristino dell'ambiente stravolto dal calcestruzzo. Morale, 15 anni dopo la prima ordinanza di demolizione, 13 dopo il fallimento della società Baia delle Ginestre S.p.A., rilevata nel 2006 dalla gara fallimentare dalla Regina Pacis SRL, apparentemente per pura coincidenza allo stesso gruppo Antonioli, 10 dopo gli abbattimenti, 9 anni dopo la terza sentenza della Cassazione, la faccenda è ancora aperta e lancia agli abusivi e agli speculatori il seguente messaggio: costruite, costruite, costruite. E poi fate ricorsi su ricorsi su ricorsi. Tanto la giustizia italiana è un colabrodo. E di chi sarebbe la colpa? Delle solite toghe rosse? Ma per favore. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Gian Antonio Stella, L'abusivismo vince nel paese dei cavilli, dal Corriere della Sera del 22 giugno. Letture di Radio 24. In Arabia Saudita ci sono luoghi dove le donne non sono obbligate a indossare il velo e possono guidare anche senza il permesso di un guardiano maschile. Sono i compound, vere e proprie roccaforti riservate esclusivamente agli occidentali, che si trovano lì per ragioni di lavoro. Sai, loro non vogliono mischiarsi con i sauditi, tutto qui. Preferiscono stare con i loro simili, vivere in modo libero senza essere disturbati. Mi racconta Zamil in una delle nostre chiacchierate su Skype, che ormai sono diventate un appuntamento fisso del pomeriggio in redazione. Zamil è un ingegnere saudita di 30 anni, laureato negli Stati Uniti, che vive e lavora ad Amman, una città portuale all'estremità orientale del paese.